GR24, il sole 24 ore. Caso Ruby, la Procura di Milano chiede il giudizio immediato per Berlusconi, ci sono prove evidenti. Il Premier reagisce così, è uno schifo, farò causa allo Stato, a Napoli intanto nuove perquisizioni sui giri di squillo. Crescita, il Consiglio dei Ministri vara gli incentivi e la riforma di 3 articoli della Costituzione. In attesa di Germania e Italia, un italiano trionfa in Baviera, Innerhofer, oro ai mondiali di Super G. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura dunque la giornata politica, condannato il Consiglio dei Ministri che ha varato misure per la crescita economica, dall'altro le notizie che vengono da Palazzo di Giustizia a Milano. E allora andiamo proprio qui dove si trova Raffaella Calandra, la notizia è che la Procura ha chiesto il giudizio immediato per Silvio Berlusconi. Raffaella. Sì, le prove sono evidenti e per questo per la Procura Silvio Berlusconi va processato con rito immediato per entrambi i reati. La richiesta di giudizio questa mattina è arrivata sul tavolo della giudice per l'indagine preliminare Cristina Di Censo al 7° piano del Palazzo di Giustizia insieme al carrello con tutti gli atti dell'inchiesta che mette sotto accusa Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile. 782 pagine di verbali, intercettazioni, memorie, ma non delle telefonate, 5 del Premier che saranno invece direttamente distrutte perché irrilevanti per l'inchiesta, ha anticipato il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, chiarendo anche la loro posizione rispetto alla competenza milanese a giudicare e non del Tribunale dei Ministri, perché il reato di concussione sui poliziotti, ha detto, sarebbe stato commesso nell'esercizio della qualità e non delle funzioni di Presidente del Consiglio. Cita il filosofo John Mill, il procuratore, a proposito del metodo di ricerca della verità, dedicando attenzione alle opposte ragioni, e sul nodo di un giudizio immediato per entrambi i reati si richiama a quanto già indicato nell'invito a comparire per Berlusconi, ossia aver commesso il reato di concussione per cercare di occultarne altri. Non ci saranno invece contatti con l'inchiesta napoletana, invece un nuovo elemento emerge qui dal Palazzo di Giustizia di Milano ed è una accusa per la stessa Ruby al Tribunale dei Minori per aver fornito false generalità. Alessio. Raffaella, questa mattina avevamo dato notizia anche di un gruppo di manifestanti davanti al Palazzo di Giustizia, qual è la situazione al momento? Un centinaio di persone si sono ritrovate qui davanti all'ingresso principale in corso di Porta Vittoria, l'ingresso principale del Palazzo di Giustizia milanese, con striscioni e scritte pro Berlusconi, un ulteriore sintomo della tensione e della battaglia giudiziaria e politica che intorno alla vicenda Ruby si sta sviluppando. Grazie Raffaella, Raffaella Calandra da Palazzo di Giustizia a Milano, e questa vicenda si sviluppa anche attraverso le dichiarazioni del Premier Berlusconi al termine del Consiglio dei Ministri, proprio in reazione a quelle notizie che stavano arrivando in quel momento da Milano. Farò causa allo Stato, così Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, non la prende bene Silvio Berlusconi la richiesta di rito abbreviato per il caso Ruby. Alle prove evidenti dei PM milanesi, il Premier risponde con l'ennesimo scatto d'ira, sono eversori e violano la legge, ma sentiamo il Premier. Mi domando chi pagherà per queste attività che a mio modesto avviso hanno soltanto finalità eversive. Una vergogna, veramente, guardi, uno schifo è una vergogna e non so come pagheranno. Nessuno pagherà, alla fine pagherà lo Stato, perché naturalmente intenterò una causa allo Stato perché sapete che non c'è la responsabilità dei magistrati. Buongiorno. Ed è una cosa da cambiare che cambieremo. Berlusconi insiste nella sua difesa, la concussione non esiste, io sono intervenuto perché ero preoccupato di un incidente diplomatico internazionale, faccio tanti sacrifici per fare un servizio al paese. Dall'opposizione l'Italia dei Valori risponde, è partita la campagna punitiva del Premier contro i magistrati, il Presidente del Consiglio è ridicolo, dice di voler far causa allo Stato e quindi anche a se stesso. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie anche a Elisabetta Fiorito, e queste dichiarazioni sono state fatte da Berlusconi al termine del Consiglio dei Ministri che, come dicevamo, ha varato delle misure per la crescita, c'è la riforma degli incentivi, ci sono 3 articoli della Costituzione che dovrebbero essere riformati per cambiare il principio attorno alla questione della libertà di impresa. Cerchiamo di capirci qualcosa di più con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Una serie di interventi, quelli varati questa mattina da Palazzo Chigi, che nelle intenzioni del Presidente del Consiglio Berlusconi dovrebbero dare una scossa all'economia del nostro Paese, portando il prodotto interno lordo già da quest'anno ad un più 1,5%. Nello specifico dei provvedimenti abbiamo un disegno di legge costituzionale che modifica non solo l'articolo 41 sulla libertà di impresa, ma anche il 97 e il 118, articoli questi correlati. Sarà permesso, ha spiegato Berlusconi, tutto ciò che non è espressamente vietato. Si tratta di misure, ha aggiunto il Ministro dell'Economia Tremonti, che avranno il consenso delle autorità internazionali, ma sentiamo Tremonti. Siamo convinti, data la particolarità del caso italiano, che è necessario sentire tutti, ma abbiamo l'intenzione verificata di avere il sostegno in questo lavoro del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE e della Commissione Europea. I governi fanno i governi, gli esperti servono, ma noi riteniamo che sia fondamentale avvalersi di esperienze internazionali e non solo naturalmente italiane. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera inoltre al decreto legislativo sugli incentivi, al rilancio del piano casa, del piano per il mezzogiorno e all'incentivazione della banda larga. Con un disegno di legge si punta infine allo smaltimento del pregresso nelle cause civili. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta, così dunque il Consiglio dei Ministri. Ma a proposito della notizia con cui abbiamo aperto questa edizione di GR24, cioè il giudizio immediato chiesto dai PM di Milano per Silvio Berlusconi, l'inchiesta Ruby, c'è un'altra inchiesta collegata a questa ed è in corso a Napoli oggi, nuove perquisizioni, sentiamo. Su mandato della Procura di Napoli è in corso la perquisizione della casa della soubrette Sara Tommasi a Milano. Contemporaneamente perquisizioni sono in corso in altre abitazioni di gente coinvolta nell'inchiesta partenopea partita da un giro di squillo, soldi falsi e legami con la camorra del clan dei Mallardo. In particolare le attenzioni sarebbero concentrate sulla casa di un certo Vincenzo Saiello, detto Bartolo, presunto organizzatore del giro di prostituzione e l'uomo che porta i magistrati alla Tommasi, eseguendo gli sgherri di Bartolo che gli inquirenti finiranno sulle tracce della soubrette. Tutto ha inizio quando Bartolo organizza per Sara Tommasi un incontro con un uomo d'affari in un hotel. A pochi minuti dall'incontro la Tommasi dice di non poter più andare. Gli agenti della DDA trascrivono una telefonata tra Josué, uno sgherro di Bartolo, andato davanti alla casa della soubrette per convincerla ad andare all'appuntamento già fissato con un cliente. L'uomo dice di essere allibito perché vede la Tommasi andare via con le guardie del corpo di Berlusconi e il 9 settembre Palazzo Chigi smentisce tutto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora a proposito del scontro tra politica e magistratura, arriva il sì del CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, alla tutela del pubblico ministero del processo Mills, Fabio De Pasquale. Secondo il plenum furono denigratorie le affermazioni di Silvio Berlusconi, che definì il PM famigerato. Nella stessa occasione il Presidente del Consiglio si disse convinto dell'esistenza di un accordo tra giudici di sinistra per sovvertire il risultato delle elezioni, frase in parte ripetute anche oggi, parole che, dice oggi il plenum, del CSM minano la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ordine giudiziario. E ora ci spostiamo a Roma, dove oggi sarà una giornata di lutto cittadino per la morte di quattro bambini rom nell'incendio della loro casa baracca sull'Appia Nuova. Nel centrodestra c'è un po' di polemica tra il sindaco Alemanno e il ministro Maroni, che poco fa però ha smentito nessuna polemica col sindaco della capitale, ma sentiamo. Annuncia che si appellerà a Berlusconi il sindaco Alemanno dopo il no del Viminale ai nuovi fondi per fronteggiare l'emergenza nomadi a Roma. Con una nota ufficiale ieri il ministro Maroni ha risposto picche alle richieste del primo cittadino e del prefetto, ricordando che per il piano nomadi della capitale sono stati già stanziati 32 milioni di euro. Maroni non ha capito, i fondi ulteriori servono per i nuovi campi, ha spiegato stamattina Alemanno, che ha detto anche di voler incontrare il responsabile del Viminale. Quella di oggi intanto a Roma è stata una giornata di lutto cittadino per i quattro bambini rom morti domenica nel rogo della loro baracca in un campo abusivo. Per ricordarli è stato osservato un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici comunali. Nel pomeriggio la comunità di Sant'Egidio ha anche organizzato una veglia religiosa, mentre per domani Sinistra e alcune organizzazioni di volontariato manifesteranno contro la politica di Alemanno sull'emergenza nomadi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora con la cronaca, perché ci sarebbero sviluppi sul caso delle due gemelline svizzere che sono scomparse, sviluppi che però non sarebbero positivi. Qualcuno le avrebbe viste a bordo del traghetto per la Corsica. Erano lì con il papà, Matthias Schepp. Lo ha detto questa mattina il procuratore di Marsiglia, che ha parlato di 3 testimoni. Ma le due bambine nessuno le ha viste scendere sull'isola, cosa che non lascia ben sperare, perché potrebbe prendere corpo l'ipotesi che il papà possa averle buttate in mare. Anche se un uomo sostiene di averle viste il 1 febbraio sulla sua giostra a Marsiglia, un ristoratore è convinto invece di averle viste a Cerignola il 4 febbraio. Tutte testimonianze da verificare. Di certo c'è che ieri sono state rintracciate 10 lettere indirizzate alla mamma delle bimbe. Dentro neanche una parola, ma gran parte dei 7.500 euro prelevati a Marsiglia prima di imbarcarsi. Altro brutto segno, si sperava infatti che fossero stati utilizzati dall'uomo per pagare qualcuno che custodisse le gemelline. Intanto proseguono le ricerche. Questa mattina 2 camionette della gendarmeria elvetica sono arrivate di fronte all'abitazione di Matthias Schepp a Saint-Sulpice, vicino Losanna. 3 cani hanno cercato nel garage e nel giardino, dove si è anche scavato. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In una giornata che, come abbiamo sentito, vede il Presidente del Consiglio Berlusconi ancora una volta impegnato a difendersi nelle inchieste, soprattutto dalle inchieste giudiziarie che vengono da Milano, c'è una figura all'interno del governo, è il Ministro Bondi, che sta tenendo un atteggiamento molto diverso. E però cerchiamo di capire, perché sembra che dal ministero sia sparito Dario Ceccarelli. Che succede con Bondi? Eh sì, Alessio, hai detto bene, nel nostro governo c'è un fantasma del quale, se si va avanti così, presto si occuperà la nostra collega Federica Sciarelli di Chi l'ha visto. Parliamo appunto di Bondi, il ministro per i beni e le attività culturali, che è praticamente scomparso dal ministero da prima di Natale. Per comunicare con lui bisogna chiamarlo, questa è la curiosità, a Novi Ligure dalla compagna Manuela Repetti. Ma è facile che non risponda. Il problema lo sapete: dopo il crollo della casa dei gladiatori a Pompei, Bondi è stato duramente accusato dall'opposizione per i tagli ai beni culturali e comunque per una sua responsabilità, chiamiamola così, di cattedra. E in che senso? Che succede? Succede che da un mese Berlusconi ha sulla sua scrivania la lettera di dimissioni di Bondi. Chiaramente sarebbe una liberazione sia per l'uomo, che in fondo ha una sua dignitosa onestà, sia per il ministero, dove Bondi è ancora amato, ma dove ormai nessuno può più lavorare. Va detto che in questo governo, dove diciamo molti sono abbarbicati, ricordiamo il caso di Scajola, eccetera, che però poi si è dimesso. Poi si è dimesso, però c'è voluta una pressione. Bondi è una rarità, scrive poesie, si commuove perfino per Berlusconi in un momento, diciamo, dove non molti si commuovono. E poi ha preso una decisione di chiudere con la cultura. Solo che così, visto che la lettera rimane bloccata, tutto è bloccato. In Italia di blocchi, compresi quello del traffico, ce ne sono già abbastanza. Benissimo, grazie allora a Dario Ceccarelli, e questa era la storia del ministro Bondi. Vedremo se ci saranno sviluppi. Avevamo detto nei titoli che, in attesa della partita di calcio Italia-Germania, in Germania c'è già un trionfatore italiano, Innerhofer. Parliamo di sci, Dario Ricci. Sì, buongiorno Alessio, arriva proprio il successo azzurro, il primo a questi mondiali di Garmisch in Baviera, quindi c'è un'Italia che già vince in Germania, sperando che poi stasera gli azzurri concedano il bis. Prima medaglia d'oro quindi per lo sci azzurro ai mondiali di Garmisch, quella di Christoph Innerhofer, che in 1:38:31 ha trionfato nel Super G con una discesa strepitosa, in cui Innerhofer, partito con il pettorale numero 15, ha recuperato centesimo dopo centesimo all'austriaco Hannes Reichelt, medaglia d'argento, che poi ha concluso a 60 centesimi dall'azzurro. Il bronzo è andato al grande dominatore della stagione finora, il croato Ivica Kostelic, staccato di 72 centesimi. Mi sono detto, questa gara è ogni 2 anni e devi mettercela tutta, ha dichiarato nel dopogara Innerhofer. Direi che è stato di parola, con una sciata perfetta che gli ha regalato questo primo oro azzurro nella spedizione mondiale. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati nella seconda parte. Nella prima ci siamo occupati dell'inchiesta sul caso Ruby, la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Berlusconi, ci sono prove evidenti, così la procura. La reazione del premier: è uno schifo, ha detto Berlusconi, farò causa allo Stato. Intanto a Napoli nuove perquisizioni sui giri di squillo. Poi oggi il Consiglio dei Ministri ha varato alcuni incentivi per la crescita e anche la riforma. Uno schema per la riforma di 3 articoli della Costituzione sulla libertà d'impresa. Adesso le altre notizie. Prima però il sondaggio, come annunciato, siete d'accordo a lavorare anche il giorno della festa nazionale? Il 17 marzo è stata proclamata la festa nazionale per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La proposta di lavorare però quel giorno per andare incontro alle richieste delle imprese viene dalla Lega e in parte anche dal presidente di Confindustria Marcegagli. Ebbene, la vostra risposta è stata sì, lavorare per il 55%, no, invece festeggiare per il 45% dei nostri ascoltatori. Adesso andiamo all'estero, andiamo in Egitto, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri al Cairo. Oggi un'altra giornata di manifestazioni, Alberto, e tra l'altro dal punto di vista diplomatico c'è da registrare l'incontro del presidente Mubarak con l'inviato russo per il Medio Oriente. Alberto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, Piazza Tahrir adesso è un nuovo eroe, come sapete, perché ieri in questa piazza è venuto Wael Ghanim, il manager di Google, che era stato arrestato per 12 giorni, tenuto incappucciato, sequestrato dalla polizia, poi rilasciato. Ebbene, la pagina di Facebook che lo propone come nuovo leader della rivolta ha già 100.000 adesioni. Questo per dirvi quanto contano ormai i nuovi mezzi di informazione anche in questa rivoluzione egiziana. E poi ci sono le note dovute appunto alle manifestazioni, che sono state numerose in mezzo alla città, e c'è la notizia anche che il movimento 6 aprile avrebbe provato anche a interrompere la strada dell'aeroporto. Insomma, continuano queste manifestazioni, continua il braccio di ferro tra la protesta e un Mubarak che resta in sella e che, come avete detto anche voi, addirittura si dà l'attività diplomatica. Questo incontro con l'inviato russo potrebbe avere un qualche significato, una qualche importanza dal punto di vista della mediazione anche con altri paesi dell'Occidente o no, Alberto, secondo il tuo punto di vista? Beh, innanzitutto è il secondo inviato estero che lui vede, perché ieri aveva visto l'inviato degli Emirati. Che cosa sta succedendo sul piano internazionale? Sta succedendo che quasi tutti cercano, soprattutto gli arabi, anche Israele, di sostenere Mubarak al potere, e lo fa anche Putin, chiaramente. Insomma, tutti gli autocrati o comunque coloro che sono interessati alla stabilità dell'Egitto e alla continuità dell'Egitto vogliono che Mubarak resti in sella. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore al Cairo. E dall'Egitto ci spostiamo poco più a sud, in Sudan, il più grande paese africano, almeno ancora per poco, perché in via di dissoluzione, in via di divisione in due stati. È la notizia di queste ore, e oggi Gigi Donelli, che è qui in studio con noi, anche il giallo di un ministro morto. Che cosa succede, sì, in Sudan? Buongiorno Alessio, sì, un ministro ucciso, effettivamente questo colosso che viene diviso. Ieri è stato proclamato il risultato del referendum, dunque a luglio nascerà il Sud Sudan, che da solo è grande come Francia, Germania e buona parte di Spagna messa insieme, quindi rimangono due paesi enormi. Questa mattina Jimmy Lemi Milla, quindi ministro per lo sviluppo agricolo, è stato ucciso di fatto sulla porta di casa. Ecco, quello che emerge in queste ore è che a ucciderlo è stato il cognato. Cos'è accaduto? La notizia ha fatto il giro del mondo. Magari questa è una faccenda familiare, magari si è pensato è una questione legata all'infiltrazione di Al-Qaeda, magari addirittura un sicario del nord. Insomma, è evidente che al di là di quello che apprenderemo nelle prossime ore, questa notizia dà la misura dell'attenzione e della tensione che questa separazione, peraltro ora pacifica dopo anni di guerra, rischia di portare con sé. Ripeto, il referendum è stato completato, 99,9%, insomma un trionfo per la separazione. A luglio la divisione dei due paesi, allora lì cominceranno i guai, perché si tratterà di dividere, guarda caso, quell'enorme patrimonio petrolifero che è proprio sulla linea dei confine tra i due stati. Insomma, un'altra fonte di instabilità in questa zona dell'Africa. Grazie a Gigi Donelli. Restiamo però all'estero, perché prosegue la navigazione della petroliera italiana Savina Caelin, sequestrata ieri in pieno Oceano Indiano verso le coste somale. Dopo quello di ieri non ci sarebbero stati ulteriori contatti con i rapitori e l'equipaggio, composto da 22 persone, 5 italiani e 17 indiani, e non sarebbe per ora arrivata alcuna richiesta di riscatto. Sulle tracce dei sequestratori c'è però la fregata della Marina Militare Italiana Zeffiro, che entro oggi dovrebbe trovarsi in prossimità appunto della petroliera italiana. E ora parliamo della borsa di Londra, che ha annunciato una fusione con quella di Toronto, e il gioco comprende anche la borsa italiana, che fa parte già della società londinese. Abbiamo sentito l'amministratore delegato della borsa italiana, Raffaele Ierusalmi, che ha salutato positivamente la fusione. Lo sentiamo al microfono di Guido Maurino dell'agenzia di stampa Radio Cor. L'impatto per Borsa Italiana secondo me sarà molto positivo. Noi manteniamo responsabilità su aree chiave per il nostro mercato, che sono l'equity e il fixed income, tutta la parte del reddito fisso, l'MTS, il MOT, il mercato degli ETF, dove siamo tra l'altro leader a livello europeo, e sostanzialmente ci darà l'opportunità questa operazione col Canada di ulteriormente ampliare il raggio d'azione per questi mercati, e che quindi troveranno nella possibilità di espandere questa attività in Canada delle opportunità molto interessanti. E quindi direi che l'operazione, per quanto ci riguarda, la vediamo con molto ottimismo, e siamo molto contenti che sia stata possibile. Sono previsti tagli o riduzione di personale, in particolare riduzione del personale su Milano? No, assolutamente no. Diciamo che la parte, diciamo, di sinergie per quanto riguarda i costi sarà concentrata più che altro sulla tecnologia, e sicuramente comunque non ci sono piani di nessun genere che vedano potenziali riduzioni di organico in Italia, per cui da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Una notizia che ha lasciato tutti un po' sotto shock, soprattutto gli appassionati di sport e di ciclismo. Il corridore Riccardo Riccò ha rischiato di morire, ed è ancora in prognosi riservata, per aver fatto un'auto emotrasfusione casalinga. Il sangue se lo teneva nel frigo, adesso però rischia anche una condanna da 3 mesi fino a 3 anni per violazione della legge antidoping e soprattutto la radiazione in ambito sportivo, visto che nel 2008 era già stato squalificato per 2 anni, poi scontati a 20 mesi. Ma quali sono i rischi per la salute di questa pratica? Forse è bene ribadirlo. Dario Ceccarelli lo ha chiesto al dottor Roberto Corsetti, presidente dell'Associazione Medici Nazionali Corridori. L'autoemotrasfusione è una pratica che prevede che ad un individuo venga estratto ovviamente del sangue, che è composto da una parte corpuscolata ed una parte liquida, quindi da 2 componenti, venga estratto il sangue nella sua totalità, conservato in una sacca e poi successivamente reintrodotto nell'organismo dello stesso individuo. Quali sono i principali rischi? Il primo è: ci possono essere problemi legati a infezioni molto frequenti, e un secondo problema è legato alla cattiva conservazione. Solitamente dipende da una mancata tutela della catena del freddo, diciamo. Quindi, una volta che il sangue è stato asportato, necessariamente deve essere conservato a temperature intorno ai meno 10 gradi o in alcune particolari situazioni, per alcune parti solo del sangue, perlomeno a 2-3 gradi. Ma a queste temperature il sangue rimane valido e non a rischio solo per pochi giorni, per un paio di settimane. Il problema quindi è che queste operazioni vanno fatte con la massima tutela, come diceva lei, quindi farlo magari nel frigo di casa non è la miglior cosa possibile. Io mi auguro che nessuno pensi di poter fare cose di questo genere in assoluto. Perché ricordiamo che in Italia c'è una legge, la 376 del 2000, che punisce penalmente qualsiasi soggetto che utilizzi una pratica del genere ai fini di aumentare la performance. Nonostante ciò, e che pure è un grosso impedimento, mi auguro e voglio sperare, la pratica a cui ci facciamo riferimento è anche molto rischiosa, torno a ripetere, perché uno, è molto probabile che facendo, lei ha detto prima, casareccia, si possa rischiare un'infezione. In secondo luogo, come le dicevo prima, è che nessuno garantisce alla persona che decide di conservarsi del sangue in frigorifero che poi il frigorifero rimanga sempre attivo e che garantisca quindi la temperatura ideale di conservazione. E stasera amichevole di lusso per l'Italia del calcio con la Germania a Dortmund. Allora sentiamo le previsioni alla vigilia nelle parole del tecnico della nazionale, Prandelli. Conosciamo le difficoltà perché affrontiamo una squadra che è stata sicuramente una delle rivelazioni del Mondiale e quindi troviamo una squadra collaudata, una squadra che ha meccanismi, una squadra che è stata brava nel cambiare il proprio modo di fare calcio. Penso soltanto di poter scendere in campo e di offrire una prestazione importante, perché abbiamo secondo me le capacità per poterlo fare. Poi ovviamente troveremo difficoltà, ma io sono convinto che soprattutto nelle difficoltà che una squadra cresce e deve crescere. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Adesso vi lasciamo agli aggiornamenti di borsa, poi a Italia in controluce. Alessio Maurizi in studio, Roberto Scaltritti in regia. Vi auguro una buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.